Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buona giornata a tutti da Deborah Rosciani, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con il vostro salvadanaio. Sono pochi i provvedimenti che hanno riscosso lo stesso successo del bonus energia del 55%. Pensate che nell'incertezza che non fosse prorogato, ne abbiamo parlato moltissimo lo scorso mese di dicembre quando avevamo corso questo rischio, a dicembre appunto si erano raggiunte 185.000 richieste. Per avere un'idea basti pensare che prima del decreto anticrisi si prevedevano 130.000 domande per avere questi incentivo fiscale relativi al 2008 e quindi una cifra solo in dicembre superata di quasi il 40%. Un vero record di domande per non perdere la detrazione destinata a chi ristruttura secondo criteri di risparmio energetico. Come vi abbiamo già spiegato, il bonus dunque è stato confermato e su questo insomma non ci piove, anche se oggi piove tanto, senza tetti, ma è stata apportata qualche piccola modifica procedurale per farne richiesta. Alcune non sono ancora entrate in vigore, ma una molto importante parte il 30 aprile della procedura di comunicazione online all'Enea. Vi spieghiamo tutto questa mattina con Gianpaolo Valentini, responsabile del gruppo di lavoro efficienza energetica dell'Enea per l'appunto. Dottor Valentini, già con noi, buongiorno. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Grazie di essere tornato nella nostra trasmissione, lo avevamo già avuto la settimana scorsa a Soldi e dintorni, e grazie di essere di nuovo con noi anche all'ingegner Valeria Erba, presidente dell'ANIT, l'Associazione Nazionale per l'Isolamento Termico ed Acustico. Bentornata. Buongiorno a tutti. Numero verde per i vostri interventi è sempre l'800 24 00 24, il numero per i vostri messaggi è sempre il 349 238 6666. Dobbiamo dare un'occhiata un po' più attenta del solito stamattina alla borsa. Il quadro è piuttosto negativo, già ieri per la verità per tutti i timori che si stanno propagando a macchia d'olio a questo punto anche sul tessuto economico, ieri appunto avevano determinato una giornata piuttosto ballerina per la borsa. Il mercato americano ha chiuso negativamente, ma non più di tanto per la verità, perché il Dow Jones ha registrato una flessione dello 0,6%, ieri sera il Nasdaq dello 0,8%, ben più pesante invece è la seduta in Europa. Parigi perde il 2,34%, Francoforte il 2,55%, Londra un po' meno, -1,91%, ma oggi la maglia nera d'Europa è Piazza Affari. S&P MIB -3,17%, MIBTEL -2,66%. Ancora in discesa fortissima i titoli delle compagnie aeree, in particolar modo Lufthansa. Francoforte perde il 9,22%. Un po' meno perde British Airways, che in questo momento non riesco più a trovare, ma insomma era in perdita qualcosa come il 5%, -4,23%, eccola qua in questo momento. Per quello che riguarda invece il mercato francese, nessuna particolare tendenza in questo momento per Air France KLM, ecco -2%, quindi molto meglio rispetto alla concorrente tedesca. Oggi i titoli che scendono parecchio a Parigi sono i titoli del settore automobilistico, mentre in termini generali sotto pressione è tornato il settore bancario a Piazza Affari, così come in tutta Europa, perché si prospetta questa possibilità per i due colossi bancari americani Citigroup e Bank of America di far nuovamente ricorso al mercato con un aumento di capitale. Lo indica a queste due banche la Federal Reserve, la banca centrale americana, e questo oggi è bastato a far tornare di nuovo in tensione il settore. Non sono però i titoli bancari peggiori a Piazza Affari, anche se per esempio Intesa San Paolo perde 4,5 punti, Unicredit ne perde il 4,30. I peggiori sono STM -6, Pirelli -5,53, ma Pirelli ha corso tanto negli ultimi giorni, Bulgari -5, Tenaris -4,65, Ansaldo -4,58, Buzzi Unicem -4,57, e anche Telecom perde 4,5 punti. Non c'è nessun titolo positivo a Piazza Affari in questo momento. Ci sono però alcuni titoli che perdono un po' meno, -0,45% per Eni, che perdeva più di un punto fino a poco fa, Terna -1,24%, A2A -1,24%, Mediobanca -1,82%, Enel -1,94%, un po' in ripresa il dollaro sull'euro a 1,3011, il petrolio che ieri era sui $50 al barile, oggi quota 49. Abbiamo una buona notizia dalla Germania, perché c'è il ritorno all'utile da parte di Deutsche Bank, ma questa è una notizia che oggi viene del tutto trascurata dal mercato, che invece preferisce guardare in maniera negativa ancora al settore bancario. Questi diciamo che sono un po' i temi che oggi stanno condizionando la seduta, brutta seduta sui mercati, dicevamo, per tutta una serie di fattori. Noi però la borsa adesso la lasciamo e ritorniamo al tema di cui ci occupiamo oggi come approfondimento. Ritorniamo sul bonus energia del 55%. C'è qualche novità procedurale che ovviamente tutte le famiglie interessate a questi lavori devono conoscere. Sentiamo quali sono queste novità. In attesa del provvedimento delle entrate, la detrazione del 55% sugli interventi di risparmio energetico conquista un primo punto fermo. I contribuenti che hanno completato i lavori nel 2009 troveranno online, a partire da giovedì 30 aprile, la nuova sezione del sito internet dell'Enea per l'invio della documentazione tecnica. Non è arrivata invece nessuna precisazione, nonostante gli oltre 2 mesi di attesa, per quanto riguarda i termini e le modalità di invio della comunicazione all'Agenzia delle Entrate relativa alle spese sostenute nel 2009. Un intervento, quest'ultimo, previsto dal decreto anticrisi che ha modificato la disciplina della detrazione del 55%, sollevando non poche polemiche a inizio anno, in seguito alle quali il governo aveva deciso di fare un passo indietro. Oltre alla comunicazione da effettuare all'Agenzia, la sola altra novità introdotta da quest'anno è che per le spese sostenute dal 1 gennaio in avanti, la detrazione sarà ripartita in 5 anni anziché 3 come in precedenza. Nessuna retroattività invece per chi ha affrontato le spese nel 2008. Per chi ha svolto i lavori l'anno scorso, infatti, esiste ancora la possibilità di scegliere in quanti anni spalmare l'agevolazione, da un minimo di 3 a un massimo di 10. A fare da riferimento sarà la data di pagamento, quella cioè in cui è stato eseguito il bonifico, che dovrà essere antecedente al 31 dicembre 2008. 800 24 00 24, la fine della scheda mi ha colto un po' di sorpresa. 34 è il numero verde per i vostri interventi, 349 238 6666 il numero per i vostri messaggi. Allora, da che cosa partiamo? Ripartiamo da questa novità che parte il 30 aprile, il fronte è quello dell'Enea. Dal 30 aprile si potrà inviare la comunicazione sulla gestione dei lavori, il procedimento appunto dei lavori online per l'appunto. Allora, dottor Valentini, ci concretizza un po' questa notizia, come abbiamo avuto modo già di fare con lei a Soldi e Dintorni. Chi riguarda intanto questa scadenza? Perché ricordiamo appunto che chi ha eseguito dei lavori di riqualificazione energetica della propria casa ha tempo 90 giorni per poter inoltrare appunto la domanda all'Enea, la domanda per ottenere questo incentivo fiscale. Sì, allora questa novità, che poi in realtà non è una novità perché il sito per l'invio delle documentazioni era già online lo scorso anno per il 2008, comunque dal 30 aprile tutti coloro che hanno completato i lavori nel 2009 dovranno inviare la propria documentazione online attraverso il nostro sito, che è raggiungibile dall'indirizzo efficienzaenergetica.acs.enea.it, dove si trovano anche tutte le informazioni necessarie. Il sito è in via di completamento, questo applicativo per l'invio sto parlando, quindi contiamo appunto di metterlo online il 30 aprile, sperando che non ci siano grossi problemi per gli utenti. In ogni caso noi saremo a disposizione per cercare di ovviare a difficoltà che eventualmente potessero insorgere attraverso il nostro servizio di consulenza per posta elettronica. Ecco, c'è però ancora, come dire, un gruppo di contribuenti che teoricamente devono ancora hanno ancora l'obbligo di inviare la documentazione per avviare la pratica per ottenere l'incentivo fiscale, però comandata, quindi non possono utilizzare la procedura online. Chi interessa invece questa procedura, chiamiamola così, tradizionale, cartacea, dottor Valentini? Non saprei come altro definirla. Dal 30 aprile praticamente interesserà tutti, perché fino a che non era online il sito e finché non sarà online il sito, tutti coloro a cui scadono i 90 giorni a disposizione per l'invio della documentazione possono inviare le loro pratiche anche per raccomandata semplice. Però dal momento in cui il sito sarà online e operativo, ripeto, sperando e toccando ferro che non ci siano grossi problemi per gli ascoltatori, saranno tenuti tutti coloro che hanno completato i lavori quest'anno. E quindi la raccomandata a quel punto non sarà più consentita. Ecco, tutte le novità di cui stiamo parlando questa mattina, come abbiamo avuto modo di specificare nella nostra scheda in altre circostanze, sono novità e nuove procedure che sono state introdotte dal cosiddetto decreto anticrisi, il 185 del 2008, quello che ha sostanzialmente anche previsto che la detrazione del 55% possa essere spalmata in 5 rate annuali, anche se dobbiamo ricordare, Valeria Erba, che chi ha concluso i lavori nel dicembre 2008 può ancora utilizzare le vecchie modalità temporali, no? Sì, in realtà chi ha chiuso i lavori nel dicembre 2008 dovrebbe aver già fatto tutto l'iter procedurale, perché aveva i 90 giorni di tempo, quindi in realtà a marzo questi sono conclusi, ecco. Infatti. Per il 2009 abbiamo sentito che cosa bisogna fare, diciamo, per chi li ha finiti entro il 30 di aprile dovrà farlo per raccomandata semplice, per gli altri, perché diciamo sono finiti 90 giorni entro 30 aprile, dovrà farlo per raccomandata semplice, tutti gli altri speriamo che il sito sia online. Ecco, ci aiuta invece a capire esattamente in che cosa consiste questa comunicazione preventiva che dovremmo inoltrare per chi è interessato appunto a questi lavori all'Agenzia delle Entrate. Manca ancora questo tassello, ma insomma è un problema visto che parte la procedura all'Enea, il fatto che manchi invece la possibilità di fare la comunicazione preventiva all'Agenzia delle Entrate, che tipo di problemi comporta? Ma che tipo di problemi comporta? Sinceramente non le saprei rispondere, nel senso che era stato previsto che fosse comunque inviata per tutte le spese del 2009, oltre alla documentazione classica all'Enea, questa comunicazione all'Agenzia delle Entrate. Il fatto che il modulo di comunicazione non sia stato ancora fatto e non ci sia ancora online e non sia previsto in nessun decreto uscito, in nessuna comunicazione dell'Agenzia delle Entrate ancora uscita, mi lascia pensare che comunque finché questo modulo non c'è, uno non ha la possibilità di utilizzarlo e quindi decade quest'obbligo. Ecco, questa è la nostra interpretazione. Quindi teoricamente non dovrebbe limitare le persone che comunque vogliono avviare dei lavori? No, nel senso che nel momento in cui il modulo non c'è, quindi io non ho la possibilità di farlo, potrebbe essere che se il modulo dovesse uscire domani venga fatta la richiesta a tutti quelli che hanno già fatto i lavori quest'anno, comunque hanno già fatto le pratiche quest'anno, venga inviata dopo questa comunicazione. Sta di fatto che comunque questa comunicazione, per quanto è uscito appunto gli ultimi decreti dell'anno scorso, non vincola il fatto che venga dato il finanziamento o meno. Dovrebbe essere solo una comunicazione informativa. Se non ricordo male, lo avevamo detto anche nell'altra puntata, teoricamente questo serve al Ministero dell'Economia per sapere quanti soldi dovrà erogare nel corso dell'anno, quindi per avere un po' un'idea di massima, visto che non ha potuto porre il tetto all'incentivo, in qualche maniera vuole sapere quantomeno quanto dovrà essere caricato sulle sue spalle in termini economici. Allora, ci sono già molte domande, molte richieste di intervento da parte dei nostri ascoltatori sul tema di questa mattina, però ci chiedevamo anche a microfoni spenti con l'ingegnere Erba, dottor Valentini, la questione delle procedure, sempre appunto della procedura di inoltro della domanda all'Enea. Adesso non mi ricordo esattamente che cosa ci stavamo chiedendo, Valeria? Sì, il c'era tema semplificazione appunto che si era detto, probabilmente ci saranno anche delle semplificazioni burocratiche, non so, a livello di modulistica Enea piuttosto che a altri livelli, quindi mi chiedevo a questo punto l'esperto dell'Enea se sapeva di più. Ecco. Dottor Valentini. Sì, dunque, non è che ci saranno grandi semplificazioni, abbiamo limitato il numero di notizie da chiedere per quanto riguarda per esempio la tipologia edilizia, per fare un esempio, però noi siamo vincolati anche a quello che occorre sapere dal decreto ministeriale del 19 febbraio del 2007, che ha dettato un po' appunto quello che i contribuenti ci devono dichiarare, e quindi noi abbiamo dei margini di manovra molto stretti. Se posso permettermi un ulteriore dettaglio per quanto riguarda poi la comunicazione da inviare all'Agenzia delle Entrate, sì, forse qualcosa di più, prevedo che insomma intorno ai primi giorni di maggio dovrebbe essere pubblicata, se non addirittura prima, visto che mi risulta che sia praticamente pronta, però non è che questo comporterà ulteriori o pesanti oneri a carico dei contribuenti, perché si tratterà semplicemente di dichiarare il tipo di lavoro che si intende realizzare, l'immobile su cui si interviene e la spesa che si prevede di sostenere. Di e comunque tutto questo riguarderà solo coloro che inizieranno i lavori nel 2009 e prevedono di terminarli nel 2010, quindi non coloro che inizieranno e termineranno i lavori nel 2009. Benissimo, e anche questo insomma è un punto fermo di grande chiarezza. Fabio ci chiede: spese finite nel 2008 ma fine lavori a marzo 2009, dove e come devo mandare i documenti? E allora qua, dunque, in teoria i lavori non sono ancora terminati, ma lui comunque forse era tra le persone che avevano paura di non poter usufruire dell'incentivo fiscale, quindi si è sbrigato evidentemente a fare tutti i pagamenti alla fine dell'anno. Però lui insomma in che situazione si trova? Dottor Valentini, mi può aiutare allora, per esempio rispetto all'Enea, che cosa deve fare? E allora, se il signor Mario terminerà o ha terminato i lavori nel 2009, per lui non cambia assolutamente nulla ed è tenuto solamente ad inviare la documentazione all'Enea attraverso il nuovo sito, che ripeto andrà in onda online il 30 di aprile, entro 90 giorni dal termine dei lavori, quindi avrà tempo aprile, maggio e giugno, quindi fino a giugno avrà tempo per inviare la domanda. Benissimo, ingegnere Erba voleva aggiungere qualcosa, mi sono sbagliata. Allora, cominciamo a sentire i nostri ascoltatori per capire se ci sono dubbi, è chiaro che ce ne saranno molti rispetto a queste novità. Direi di cominciare con la nostra ascoltatrice, che è Maria dalla provincia di Lecco. Maria, benvenuta. Buongiorno, io volevo sapere per favore se io ho finito i lavori oggi, mi hanno messo la porta finestra, sì, a risparmio energetico. Mi ha detto il costruttore, quello che me l'ha montata, che ho diritto. Però volevo sapere, io da semplice cittadino posso mandare la documentazione all'Enea, al sito, se me lo ripeta, perché io ho spento la radio per telefono, non, il dottore si sente poco. No, ma glielo ripetiamo, Maria, molto volentieri, non si preoccupi. Detto questo, intanto il tema è capire se per un lavoro piuttosto semplice, che è quello che ha eseguito la nostra ascoltatrice nella sua casa, ha cambiato la porta finestra, può imbarcarsi lei della gestione della pratica. Ingegner Valentini. Certamente sì, spero che la signora non abbia difficoltà, come ripeto, a riempire i moduli che sono online. Comunque può sicuramente compilare il modulo online e inviarlo attraverso il nuovo sito che sarà disponibile il 30 aprile. Quello che dovrà inserire, l'unico dato tecnico che dovrà inserire è la trasmittanza termica della porta finestra, che però potrà farsi rilasciare dall'installatore che le esattamente, ha deve averglielo indicato, perché se è stato ovviamente in grado di potergli dire che questo era un lavoro che poteva usufruire dell'incentivo fiscale, gli potrà dare ovviamente anche l'informazione tecnica. Non solo l'informazione, ma proprio anche una certificazione. Cioè il serramentista deve dargli la certificazione della qualità del serramento. Quindi. Ecco, noi tra l'altro stiamo parlando di tutta la procedura necessaria per poter ovviamente avere diritto a questo incentivo, quindi stiamo parlando di una fase che comunque è già successiva all'inizio dei lavori, però ovviamente bisogna anche aver chiaro, forse sin dall'inizio, quale tipologia di lavori hanno il diritto a questo tipo di beneficio fiscale. Allora, ingegnere Erba, magari possiamo rifare un po' di ABC sul bonus del 55%, in che cosa consiste, quali tipi di intervento sono agevolati, forse questo è un po' insomma un'indicazione necessaria. Sì, riassumendo un attimo gli interventi che sono agevolati e per cui è possibile detrarre appunto il 55% sulle spese, sono tutti quegli interventi, ci sono diverse tipologie, diciamo che c'è una primissima tipologia per cui sono tutti quegli interventi che mi permettono di aumentare l'efficienza energetica del mio edificio, di ridurre il fabbisogno energetico del mio edificio fino a un certo limite che è appunto previsto in delle tabelle. Dopodiché ci sono tutti quegli interventi invece parziali della serie: rifaccio il tetto, rifaccio i serramenti, rifaccio le coperture, rifaccio le pareti. Anche in quel caso viene richiesta una resistenza termica alla struttura, quindi un'efficienza energetica alla struttura, limite, quindi viene data una richiesta, viene dato un limite ben preciso alla prestazione della struttura. Dopo c'è l'installazione dei pannelli solari e infine la sostituzione di impianto di climatizzazione con un altro impianto, anche in una condensazione, come era precedentemente richiesto nel 2007, quindi un impianto anche ad alta efficienza di diverso tipo. Tra l'altro mi viene in mente adesso che non abbiamo dato alla nostra ascoltatrice di Lecco l'indirizzo dell'Enea a cui potersi collegare per poter fra qualche giorno cominciare a fare appunto la domanda per il beneficio fiscale. È efficienzaenergetica.acs.enea.it, ma ve lo ricorderemo fino allo sfinimento, fino a fine trasmissione. Abbiamo determinato quei tipi di interventi? Le tipologie di intervento sono queste, sì, le tipologie di intervento sono tutte queste, è possibile appunto una detrazione del 55% sull'IRPEF. Nel 2008 era da 3 a 10 anni, adesso è in 5 anni di rate fisse. Eccoci ritrovati e allora questa mattina siamo ritornati sul bonus energia, il risparmio del 55% per chi esegue lavori di ristrutturazione della propria casa secondo criteri di risparmio energetico. Questo ovviamente in maniera molto sintetica la questione, e abbiamo delle novità, ne abbiamo parlato anche nei giorni passati a Soldi e Dintorni. Oggi riproponiamo l'argomento a 360 gradi perché per i contribuenti che hanno completato i lavori della propria abitazione e che li completeranno appunto quest'anno, a partire dal 30 aprile trovano online la nuova sezione del sito internet dell'Enea per l'invio appunto di tutta la documentazione. Tra l'altro questa mattina ci sta aiutando a comprendere qualcosa in più rispetto a questa novità, che non è neanche tanto una novità, ce lo diceva anche prima, perché comunque la procedura online era possibile anche dagli anni passati. Il dottor Giampaolo Valentini, responsabile del gruppo di lavoro efficienza energetica dell'Enea. E dottor Valentini, le volevo chiedere, e anche in questo caso chiacchieravo così con l'ingegnere Erba, che è l'altra nostra ospite di questa mattina a microfoni spenti, parlavamo appunto di ciò che manca ancora all'appello di quanto prevedeva il decreto anticrisi varato lo scorso dicembre, la comunicazione preventiva all'Agenzia delle Entrate, e abbiamo già esaurito l'argomento. Però l'ingegnere Erba mi diceva anche che manca un ulteriore decreto sulla semplificazione. Ma per quanto riguarda la semplificazione, in realtà dovrebbe essere compito del Ministero dello Sviluppo Economico, che mi risulta che ci sta lavorando da diverso tempo. Però il problema, come dicevo prima, è che più di tanto credo che sia abbastanza difficile da poter varare, ovvero la semplificazione, se ci sarà, sarà comunque molto, molto limitata. Non ho notizie circa quest'ultimo provvedimento, che però prevedo che non sia immediato. Non è immediato, ecco. Insomma, mentre per quello che riguarda la comunicazione preventiva all'Agenzia delle Entrate siamo al rush finale, dovremmo avere le modalità con cui fare questa comunicazione appunto entro poche settimane. Per il decreto sulla semplificazione abbiamo tempi invece un po' più lunghi, secondo quello che è possibile sapere fino a questo momento. Allora, un'ascoltatrice ci aveva scritto questa mattina all'indirizzo di Salvadanaio, Chiara dalla provincia di Cuneo, e chiedeva: ho scoperto che per godere del 55% i locali da ristrutturare devono essere forniti di riscaldamento prima della ristrutturazione. In che modo viene controllata questa presenza del riscaldamento preesistente? Ingegner Valeria Erba. Sì, uno dei vincoli è proprio quello che comunque l'edificio sia già dotato di impianto di riscaldamento. In che modo venga valutato? In realtà nella modulistica appunto che bisogna consegnare bisognerebbe definire l'efficienza prima e dopo i lavori, quindi in realtà uno avendo prima un impianto deve definire la potenza dell'impianto che aveva prima e la potenza del nuovo impianto. Poi il controllo su quanto scritto sulla modulistica, vabbè, su questo andiamo nella buona fede delle persone, dei tecnici che poi dopo... E infatti, allora, Elvira da Milano, lei in che tipo di lavoro si vuole imbarcare? Buongiorno. Senta, noi abbiamo una casetta sull'Appennino dove vive mio figlio perché è stato trasferito per lavoro. Sì. E questa casetta abbiamo già fatto i doppi vetri, abbiamo già fatto appunto il riscaldamento e adesso siamo al tetto perché ci vuole, sarà fatto in legno così, però vorrei usufruire, vogliamo farlo con efficienza energetica di adesso del 55%. Io volevo chiedere se è possibile utilizzare questo, essendo che nell'ultimo piano c'è le camere da letto e perciò c'è un soffitto, una soletta diciamo, che prima del tetto. È possibile ugualmente usufruire del 55%? Allora Elvira, sentiamo un po' i nostri tecnici, in questo caso questa mattina ne abbiamo una, ingegnere Erba, insomma lei se dovesse fare una consulenza a questa casa che tipo di suggerimento darebbe? Sì, certo, se rifanno appunto la copertura rispettando appunto i limiti di efficienza energetica della struttura, sicuramente possono detrarre, mettere in detrazione le spese di questa riqualificazione energetica. Quindi insomma è tutto abbastanza, certo, abbastanza serena in questo caso. È importante che appunto sia la parte di copertura dove si va a intervenire eseguita nella maniera idonea, ecco. Come tutto il resto. Infatti, come insomma, tutto il resto che hanno fatto, nel senso che comunque rispetti i limiti previsti per la legge per poter accedere alle detrazioni. Ecco. Noi naturalmente possiamo avere in via preventiva una sorta di, come dire, consulenza da parte di un esperto, di un tecnico che ci dica sì, è naturale, penso che si possa, non si possono cominciare i lavori così, attribuendoli ad un'impresa senza sapere sin dall'inizio. No, poi tra l'altro è un tipo di intervento per cui c'è bisogno comunque una comunicazione al comune, per cui quindi bisogna rispettare già delle leggi sull'efficienza energetica. Infatti, no, tra l'altro magari sbrighiamo anche tutte le altre formalità, ingegnere Erba, perché noi questa mattina ci stiamo soffermando su quello che dovremmo fare rispetto all'Agenzia delle Entrate, su quello che dovremmo fare nei confronti dell'Enea, ma prima di avviare i lavori ci sono altre istituzioni che vanno informate dell'avvio dei lavori. Sì, diciamo che la legge che regola l'efficienza energetica degli edifici, che è il decreto legislativo 311 per quanto riguarda a livello nazionale, e poi ci sono delle delibere regionali, ogni regione poi ha deliberato un po' in maniera autonoma, definiscono certi interventi per i quali appunto è necessario il rispetto di determinati limiti di efficienza energetica, e sono tutti quegli interventi di ristrutturazione, manutenzione straordinaria sia di edifici esistenti, sia grossi che piccoli. Poi vengono definite certi limiti, certe prescrizioni ben specifiche, ecco. Quindi in ogni caso nella comunicazione che poi va presentata in comune, va consegnata in comune, insieme andrà consegnata anche una relazione tecnica proprio che riguarda l'efficienza dell'involucro, quindi dell'edificio. Quindi a prescindere dal fatto comunque che l'intervento è destinato a permetterci un risparmio energetico del 55%, eccetera, c'è comunque il comune che va informato attraverso la DIA? Attraverso la DIA e poi questa relazione tecnica 311, una volta si chiamava legge 10, era la tipica la relazione legge 10, ancora oggi si chiama relazione legge 10, ma è una cosa normale per noi, e che comunque va consegnata in comune, nel quale si verifica che effettivamente vengono rispettati i limiti. Tra l'altro le regioni che hanno deliberato in maniera autonoma hanno gli stessi limiti previsti poi per le detrazioni. Quindi in Regione Lombardia, se uno fa un intervento su una copertura o su una parete o qualsiasi altra cosa, per legge deve rispettare certi limiti di efficienza energetica, e sono gli stessi per cui è possibile richiedere detrazioni. Questo in Lombardia, Emilia Romagna, Liguria e qualche altra regione. Allora, nella puntata di Soldi e Dintorni, in cui abbiamo invitato il dottor Valentini dell'Enea, abbiamo parlato anche di un numero verde che è possibile contattare, dottor Valentini, per poter avere maggiori delucidazioni sul intanto il funzionamento del canale online che sarà attivo dal 30 aprile, ma credo anche per avere informazioni su tutto il ruolo giocato dall'Enea nella questione del 55%. O mi sbaglio? No, c'è anche un numero verde, come lei giustamente ha detto, che adesso lo trovo io, infatti ero 800. Volevo metterla alla prova, ma in realtà poi non lo so. Eccolo qua, l'ho trovato anch'io, sì. 800-91-3520, ripeto 800-91-3520. Che non è direttamente gestito da voi, peraltro, ma avete il supporto delle associazioni dei consumatori. Da noi, ma da un'associazione dei consumatori, e purtroppo, come ho detto l'altra volta, può darsi che sia abbastanza spesso un po' intasato, occupato, perché le telefonate in arrivo sono sicuramente superiori alla capacità di risposta degli operatori, ma in questo caso c'è il nostro servizio di consulenza di posta elettronica che si può trovare sul nostro sito che ho prima citato, e che è abbastanza efficiente, quindi noi rispondiamo nel giro di 24 ore. Aggiungo anche che per esempio per tutte le domande già proposte è già prevista una risposta nella nostra sezione delle FAQ, cioè domande frequenti, sì, che comprendono, neanche a farlo apposta, già anche le due che abbiamo già sentito. Anche questo sta sul nostro sito. Benissimo. No, tra l'altro poi volevo anche precisare un'altra cosa, che nel momento in cui attiviamo la procedura di invio della documentazione sui lavori che abbiamo fatto all'Enea, non è previsto che l'Enea riscontri la documentazione inviata, vero dottor Valentini? Esatto, l'Enea invia solamente una ricevuta informatica, cioè un codice alfanumerico che può essere utilizzato per la detrazione fiscale, e deve essere naturalmente consegnato al commercialista o al CAF, o comunque tenuto a disposizione se uno la denuncia dei redditi se la fa per conto proprio. Certo. Per quanto riguarda viceversa coloro che hanno inviato la documentazione per raccomandata, vale la ricevuta della raccomandata stessa. Luigi D'Arezzo, buongiorno. Sì, buongiorno. Buongiorno. Ci dica. Senta, la mia domanda è questa. Io abito con la mia famiglia in una casa che è proprietaria mia madre. Sì. Volevo sapere se, mia moglie, essendo libero professionista, quindi ha un buon reddito, volevo sapere se è possibile fargli fare la detrazione a lei. non essendo proprietaria di casa, però a questo punto. Va bene, Luigi. Allora, sentiamo l'ingegnere Erba. Bisogna avere la titolarità della casa, deve essere la propria casa per poter ottenere il beneficio fiscale? No, il beneficio fiscale va a chi ha effettuato il pagamento. Mm-hmm. Quindi nel caso dell'ascoltatore, nel caso, quindi dovrebbe moglie. Effettuare il pagamento la moglie, e allora a quel punto a lei il beneficio fiscale. Quindi il beneficio è sull'IRPEF, sì. Appunto della, sì, della, esatto, moglie. Quindi Luigi, insomma, ha tutto il diritto di chiedere l'incentivo fiscale per lavori di questo tipo. Sentirei anche un altro ascoltatore, a cui magari rispondiamo dopo. C'è Leandro da Milano che aspettava da un po'. Leandro, benvenuto. Buongiorno. Buongiorno. Dunque, la mia situazione è questa. Io ho in corso una ristrutturazione iniziata nel 2007 che terminerà a luglio del 2009. Sì. In quell'occasione verranno fatto tutti i collaudi, igiene civile e quant'altro, quindi con la chiusura dei lavori. Per questo io ovviamente ho in corso anche il 36%. Nel, sì, 2008 ho fatto le spese di risparmio energetico, quindi isolamento del tetto, cappotto e quant'altro, e a dicembre ho fatto la pratica di risparmio energetico attraverso un tecnico. La domanda è questa: io quest'anno continuerò l'intervento con i pannelli, e quindi che cosa devo fare per poter usufruire ancora del 55%, quindi se seguire la nuova procedura del 2009 o altro, se devo anche fare una comunicazione a qualcuno di continuazione dei lavori, e inoltre se la fine dei lavori fatta quest'anno incide in qualche maniera sulla validità del fatto che io ho fatto comunque la pratica a dicembre. Allora Leandro, beh, è un bel caso complicato. Io spero che lei abbia anche un tecnico che la possa seguire nella gestione di tutta questa pratica. E intanto io avevo anche ricevuto dei messaggi che, così, in maniera forse non molto rispettosa dei nostri ascoltatori, mi facevano un po' sorridere. Invece, con tutto il rispetto, dobbiamo specificare che le tapparelle chieste da un ascoltatore, le zanzariere chieste da un altro ascoltatore, rientrano nell'eventuale beneficio? Sì, rientrano se sono inglobate nel serramento. Quindi se cambio solo la tapparella, allora no. Se invece è inglobato in una sostituzione del serramento e quindi fa parte del serramento, sì. Perfetto. Allora, Leandro da Milano ha cominciato i lavori di ristrutturazione nel 2007, li ultimerà, secondo le sue previsioni, luglio 2009. Allora, ci generava, Leandro, qualche perplessità la sua situazione, spero che lei sia ancora in linea. Voleva farle qualche altra domanda all'ingegnere Erba. Allora, non abbiamo ben capito se ha, come dire, stabilito già la fine dei lavori nel dicembre 2008? No, Leandro. La fine dei lavori sarà fatta, esatto, a luglio 2009, perché ho il collaudo del genio civile. Benissimo. Quella comunale con la quale io chiuderò l'intervento avverrà quest'anno a luglio. Nel dicembre 2008 che cosa ha fatto? Non abbiamo capito. A dicembre 2008 ho fatto fare la pratica di risparmio energetico relativamente a tutti gli interventi che ho fatto: cappotto, isolamento del tetto, impianto di riscaldamento. Ah, ecco, ma ingegner Valentini, ma questi 90 giorni di tempo allora come vanno disciplinati nel caso di Leandro da Milano? Ma se l'ascoltatore ha già concluso la pratica dei precedenti lavori che ha fatto nel 2008 e ha già inviato la documentazione relativa all'Enea, nel 2009 dovrà solo inviare la documentazione per gli ulteriori lavori dei pannelli solari che compirà nel 2009. Tutto qua. Tutto qua, quindi insomma non è niente di complicato quello che l'ascoltatore deve fare. E lui voleva anche sapere, insomma, se deve fare delle comunicazioni di proseguimento dei lavori. No, praticamente per i pannelli è una pratica a parte, non deve comunicare di star proseguendo niente. No, esatto. Non sarà tenuto neanche alla comunicazione all'Agenzia delle Entrate se e quando uscirà, perché lui concluderà comunque i lavori nel 2009 e non li proseguirà ulteriormente. Mm-mm. Leandro, siamo a posto, è tutto chiaro? Grazie. A posto, grazie così. Gigi dalla provincia di Latina. Gigi, buongiorno. Io volevo sapere una cosa soltanto: se gli incentivi per il risparmio energetico spettano anche alle aziende, oltre che ai privati. Oltre che alle persone fisiche. Gigi, la ringrazio. Ingegnere Erba. Credo di sì. Sì. Sì, comunque c'è la possibilità appunto di andare in detrazione anche da parte di aziende. A maggior ragione. Allora, Loretta da Milano. Loretta, ecco, ci si era distratta. Ecco. Senta, io in ottobre 2008 ho eseguito una serie di lavori, nuovo impianto la caldaia e i pannelli solari. L'agenzia presso cui ho fatto, l'azienda presso cui ho fatto questi lavori, mi ha dato tutta questa documentazione, adesso devo fare il 730, e Ma... però non vedo la ricevuta di invio all'Enea della pratica. Come mi devo comportare? Dottor Valentini, no, ingegnere Erba, poi magari vi sento entrambi. Sì, sì, no, l'importante è che gli abbiano dato, cioè loro devono, se hanno fatto effettivamente tutta la pratica, devono dargli le ricevute. Dall'altro, per queste tipologie di interventi, in particolare per il discorso dell'impianto di riscaldamento, dovrebbero dargli anche l'attestato di certificazione energetica, ecco. Dottor Valentini, voleva precisare qualcosa anche lei come rappresentante dell'Enea? No, non è che c'è molto da precisare. L'importante è che abbia in mano questa ricevuta con il codice alfanumerico che testimonia l'invio all'Enea. Se non ha questa ricevuta, probabilmente non è stata inviata all'Enea la documentazione. Quindi, insomma, Loretta deve... O comunque non è stata chiusa la pratica. Quindi... Quanto tempo ci vuole mediamente per chiuderla, dottor Valentini? Ma non questo esiste, dipende naturalmente dal tipo di lavoro, dall'utente. Una volta che l'utente ha inserito i propri dati, compilato il modulo, invia la documentazione premendo un tasto a video, e dopo qualche secondo la ricevuta. Però ecco, Loretta, non è stata Loretta in prima persona a fare questo lavoro di invio la documentazione all'Enea. Loretta è ancora con noi? Sì. E quindi che cosa ha intenzione di fare adesso? Magari di rivolgersi all'agenzia, all'azienda, ecco, magari chiedere un po'. Appunto avere una delucidazione in merito. Perché lei ha fatto caso adesso, alla mancanza di questo documento, quindi ancora deve risentirli ed eventualmente richiedere. Ci faccia sapere come finisce la questione, grazie a lei. Salve. Allora, abbiamo Stefano da Napoli sugli infissi. Stefano, benvenuto. Buongiorno a tutti. Spiego brevemente la situazione. Noi molto abbiamo costituito gli infissi vecchi che erano in legno con i nuovi in PVC, quindi con valori di trasmittanza che rispettano i criteri per accedere al 55%. Questo, guardi, è il tema dell'ingegnere Erba, proprio già la vedo che si è illuminata. Ho letto nel sito dell'Enea la domanda numero 39 che nella documentazione che il fornitore deve rilasciare all'utente deve essere indicato il valore di trasmittanza termica dei nuovi infissi e in un campo specifico quello dei vecchi infissi. Rappresentato questo al fornitore, lui dice che non lo hanno mai fatto, che non lo fanno, e quindi io temo che un eventuale controllo dell'Agenzia delle Entrate mi possa negare il beneficio, mancanza di valore. Sentiamo subito i nostri esperti. Stefano, ingegnere Erba, bisogna intanto specificare la situazione preesistente con la nuova. Allora, il problema nasce dal fatto che non è la prima volta che sento questa cosa, che ad alcuni produttori di serramenti è stato proprio richiesto di dare sia la trasmittanza dei loro serramenti ma anche la trasmittanza dei vecchi che andavano a sostituire. Allora, è un obbligo relativo, nel senso che il produttore non è obbligato a farlo, è un servizio che potrebbe dare in più, però in realtà ci sono delle circolari per le quali sembrerebbe invece un obbligo del produttore che vuol fare questa tipologia di servizio. Io non credo che ci sia niente di legale per cui un produttore, anche perché dovrebbe dichiarare qualcosa di relativo, nel senso che va a sostituire un serramento, ne prende uno vecchio e dà un'indicazione di valore, cioè non è obbligato a dire faccio il calcolo preciso su ogni serramento vecchio, ecco. Quindi in ogni caso il timore di Stefano che... Allora, sul sito tra l'altro dell'Enea, sul modulo di semplificazione proprio per il discorso dei serramenti, oltretutto c'è una richiesta abbastanza blanda sui serramenti vecchi, quindi l'importante è dire che nel suo caso serramenti in legno, in vetro singolo... Quindi in teoria Stefano non rischia di perdere l'incentivo se non fa una comunicazione precisa. Chiediamo all'esperto Dottor Valentini, lei che cosa ci dice? Beh, dico semplicemente che per quanto riguarda i vecchi serramenti, o l'installatore o anche addirittura può anche lo stesso utente finale può semplicemente stimarne i valori. Per quanto riguarda l'installatore non dovrebbe avere problemi per stimare il valore di trasmittanza di un vecchio infisso. Per quanto riguarda l'utente finale può andare anche qui nella sezione per i tecnici del nostro sito e sono indicati i valori indicativi di trasmittanza termica per diverse tipologie di infissi e può semplicemente prendere questi valori. Quindi insomma una stima Stefano potrebbe essere assolutamente in grado di farla. Allora, vi ricordo che trovate in edicola oggi con il Sole 24 Ore il decimo volume della storia dell'economia mondiale. Il titolo del volume in edicola oggi è Nuovi equilibri in un mercato globale, un'economia transnazionale, l'esplosione dell'est comunista. Ascoltiamo una breve pillola tratta da questo volume. Dal fordismo al post-fordismo, il lavoro e i lavori di Aris Acornero. dopo avere portato la produttività del lavoro e la produzione di massa a livelli tali da elevare nettamente i redditi e da inondare il mondo di beni e di servizi, il modello di produzione e di consumo Taylor-Fordista è entrato in crisi con gli anni 70 e da allora evolve verso un modello chiamato per convenzione post-Fordista. Il cuore del cambiamento è questo passaggio storico, non quello dall'industria ai servizi o dalla società industriale alla società post-industriale. Tant'è vero che novità quali il just-in-time, il telelavoro, l'outsourcing e i call center vengono tutte dal nuovo modello sul quale si impernia oggi l'industria. E abbiamo terminato. Grazie all'ingegnere Valeria Erba, presidente dell'ANIT, per essere stata con noi. Grazie a presto. Voi. E grazie anche a Giampaolo Valentini dell'ENEA per essere stato con noi. Ricordo che per tutti coloro che volessero informazioni sul 55%, la procedura online, ovviamente ci si può collegare all'ENEA, ma ci sono tutte le notizie legate a questo incentivo fiscale anche sull'ANIT, ingegnere Erba. Il sito è www.anit.it, possono trovare varie informazioni proprio sul risparmio energetico. Perfetto, c'è anche il numero verde 800 91 3520, non gestito direttamente dall'ENEA ma da due associazioni dei consumatori, ma anche a questo numero verde potete trovare tutte le indicazioni che vi servono. Salvadanaio torna domani, buona giornata.